Sai che non trovo le parole per dirti quello che vorrei, ma non so più cos'è l'amore ora che tanto lo vorrei. Dammi una mano per favore, dimmi dov'è la novità. Sono rimasto qui per ore mentre tu mi aspettavi là. E tu sai che in ogni momento ti penserò. E lo sai che come fa il vento ti seguirò. Come un giardino senza sole, di una giornata senza tempo, quando le frasi dell'amore volano sopra le città, senza sapere ancora come e dove ti rincontrerò. Ma forse sto solo sognando, per questo credo partirò. E tu sai che in ogni momento ti penserò. E lo sai come fa il vento, ti parlerò.